c'è qualcuno in ascolto? Avanti. Vai cuocomane. Vai cuocomane, sarai tu. Quel pudusa. Come ti sto arrivando lì? E beh, Natali, cosa? Prova. Ho detto come ti sto arrivando lì. Sì, quasi 9:20. Sto usando il 3009. Eia, va bene, va bene. Gara gara. Come di gatti oggi, bubù. Lo so. Adesso puoi vendere il sugo, se puoi vendere, ma domani. Ah, io l'ho fatto domenica, non l'ho fatto, me la metto più. Sabato posso l'ho fatto. E ci mangiamo 2-3 volte. Io lo so, adesso lo sto facendo, domani è il compleanno di Concetta e quindi non c'era sugo e lo sto facendo adesso. Quanti anni fa? 18? No, 16 ne fa. Qua minorenne, Concetta, qua minorenne sì. Non c'è, no, è uscita. Abbiamo il tubacone in camera, eh? C'è un'aria qua, ma non male. Qua non c'è bisogno di aria condizionata, la notte c'è freddo, c'è anche d'estate. Ma non che non fa quella giornata calda, calda, calda, ma una, massimo due, ma tutto il resto delle notti dormi bene qua, eh. Io già lo so, qua lo stesso c'è freddo, già va bene. Io ho lasciato la finestra aperta, c'è. La tenda lì anda bene mela. Aspetta 2 secondi, arrivo. Ehi, vabbè, io bene, arrivo Natali. Ehia, questo è MB+4, come sta funzionando? Questo è normale, è quello nuovo che avevo in scatola. Volevo sapere come arrivo. Ce l'ho lontano un braccio, là. Bene, bene, Natali, bene, perfetta. Cara, sono contento. Gli ho fatto la prolunga per questo microfono qua. A chi sennò non lo budi un bunino oggi. E c'aveva il filo troppo corto, allora gli ho fatto la prolunga. E questa prolunga la posso girare come voglio, perché non c'ha quell'incavo che blocca lo spinotto. Ma prolunga il duio un po' a terra, dal caldo. Il cucadu è in chi, vieni. Adesso soffro, poverino, mi chiede se mi dia, magari. Io ho fatto il bagnetto al mare, tu devi vedere nuotando, una bambina di 11 mesi. Io ancora non l'ho portato al mio, c'ha 6 anni, dimmi a chi in macchina non lo vuoi buciare, se non vomita, chissà perché questo caso. Che la pega, bisogna portarlo, ma, vabbè, se non l'abitui da piccolino, capito, un casino, fai a foga. No, lì l'ha messo, prende se ne va, l'ha messo un paio di metri dalla spiaggia, là, dalla riva, e poi se ne va da sola. Vabbè, questo qui il cane è da piccolino, lo portavo in macchina e vomitava, no, non sopporta la macchina. Ma dove sei, giù o su? Lui? Giù sei? Sì, giù. Mercoledì c'è l'Italia, tornami. Gara gara. Sì, tanto usciamo perché vado a bene quest'anno. Ehi, la squadra già è giovane, chissà. Sono tutti giovani lì. Speriamo bene. Speriamo di sì. Per intanto ai turchi li abbiamo picchiati forte. 3-0. E con tutto che erano gli ucchenni in 12, mi. Vera pure un arbitro con Eddy, non frusciava nulla. Vabbè. E ieri c'era qualcuno, ieri sera? Sì, c'era Marco, Oslo, Gianfranco, io, Giulio è entrato. Andiamo, cazzo! È vero. Aspetta, piace a me, è bello, a me piace un sacco il 3009, bello, molto bello, un apparecchio. E poi non lo vendo, adesso devo, come si dice, devo rufianarmi la Gianni, se mi vende copie, che ce li ha nuovi nuovi lui. Adesso dico quanto vuole. Il mio c'ha il cielo fan sopra i coperchi addirittura. Poi mando un messaggio. Io l'ho comprato nuovo lo stesso. Capisco. Lo so, ma anche c'ho le cose fatte bene. Adesso questo qua me l'ha avvicinato Roberto, questo iPhone. Si era fotografiato era. Questo qui gli ho messo un foglio che c'avevo tipo spugna e mi ci ho messo l'altro apparato sopra, però c'è il cielo fa attaccato ai coperchi, non me l'ho tolto quello. E gli ho mandato un messaggio, vediamo se mi risponde. Chiava gaba, sarà cucato. Positivo, Radello, non c'è manco propagazione oggi, è strano, con questo caldo che sta facendo. Io c'ho il QRM a 3 qua. Vabbè, lui io vado a vedere il suo, che sarà quasi pronto. Sì, io mi stavo controllando il cane, che c'era la pappa, la pasta, no, normale, io non ne sto dando. Tutta c'era mangiata, Maria l'ha messa in terra, come al solito. Ce l'ha mangiata tutta. Se vuoi stare attento al suo cane. Vabbè, fai, io sono qua, Natali, sono nascosto. C'è qualcuno qua? CQ, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola. Attenzione, canale 10, Gambio! Oia! Vabbè, Nazarius! Già! Io adesso sto scendendo al dentista. Finito, finalmente, là! Dove andiamo? Mi ascolti, Natale, sono in mezzo al palazzo, in un garage. Già, ti ascolto, bene, c'era anche uno che ti stava salutando. Chi c'era? Non mi sente, no, Natale. Uno che ti stava salutando. Quello è drogato, non mi sente a me. Gianni, non lo senti a Luca? Ehi, già lo sento, ma stavo facendo la manovra. Ah, cappa. Andiamo bene, andiamo. E bene, Tizia! La scala dei gradi, c'è domani 32. Mercoledì 32. Giovedì 34. Venerdì 33. Sabato 37, domenica 36 gradi, che buccia! Attenta Lucrezia! Attenta Gianna Nannini, mi senti? Oui, c'est moi! Già ti copio, solo che non ti potevo rispondere, stavo facendo manovra! Ah ok, dai, andiamo! Già ti ascolto, dove sei? Luca! Che avanti! Gianfranco la scimmia! Attento Gianfranco, ma ne hai di una cosa buona? Sì, zuccherina! Chiarata, io che sono scimmiato, mandami un paio di grammi. Beh, Lu, come va? Questo è normale. Ciao, ti. Beh, segnale 7 da messi, radio 4, dai. Ti ascolto bene, Natalia, lo senti a Tino? Già lo sento. Ciao, ti. Ciao, Natalia, cosa vuoi farci? Questo è piccolo il baracco, ma è un 4 watt. Come di QRM c'è, gatto? Boh, ciao, Tori. Beh, ma va bene, metti. 4 watt a voglia. Sì, è un Seat SSB. Ma sento in lontananza Gianni. Te confermo, Gianni. Eccomi qua. Ciao Gianni, mi ascolti? Sì, ti ascolto, buonasera. Ti ascolto. Andate, dai, giusto per salutare, dai, riprendetevela, sono in QRX. Ciao Natale. Ciao ti, buon QRX. Ciao Tino, ciao. Qua c'è molto QRM da propagazione, dai. Perché sto andando verso il quadrato, vediamo un po'. Ciao Capodanno. Andiamo. Comunque è risolto già al dentista, sì. Finito oggi, dai. Mi ha ritoccato perché mi toccava la gengiva. Ma io sto aspettando che mi chiami. Devo fare la, come si chiama, devitalizzazione. Devitalizzazione? Sì, sì, sì, sì. Cioè praticamente il nervo si devono eliminare, no? Che affa. Cava cava, va bene, va bene. E poi me li devono otturare, no? Quelli che sono da otturare. Vabbè, dai, speriamo che ti faccio un buon lavoro. Ah, vabbè, ma tu devo preoccuparmi. Comunque, insomma, degli amici miei stanno andando alle macchine, ne hanno fatto in un paio di giorni 40 kg. Quanto? 40 kg. Ma è vero? Sai che mando la foto? Cavolo, 40 kg sono bei, me ne sono andati. Sì, guarda la WhatsApp già. Non sono fermo, lui, sono in macchina. Quando ti fermi. Cavra cavra. Beh, di caldi che bisogno, occhio, oh yeah. Me la posso immaginare. Attenzione sul binario 10, se ascoltate l'isola sarda che chiama, cambi... Sì, dove sei? Chi sei? Avanti. Capa che ti ascolto, dai. Tu come mi ascolti da qua? Natalino, ascolti anche. No, c'ho lo squelci. È meglio così, se no c'è troppo fruscio. Ho messo lo squelch così, anche se non sento i più bassi. Eia, eia, anda bene. Come sta andando questo 3009 già? Ma ho fatto anche il coso per il microfono, la prolunga. Che microfono hai messo? L'MB più 4. Già va bene, Natalino, una bella modulazione. Cara, questo è il 3009, cava cava. Aspetta che devo guardare WhatsApp che Luca mi ha mandato qualcosa. Oh Lu, ma le vendono quelle lumacchine? Penso di sì. Dipende da quanto le volete. E quando torna mia moglie, glielo dico. Se può portarne un chilo solo, no, non ci viene neanche. Ma se mi indui, mi devo subire a due chili. Vabbè, ti dimmi un chilo due, un chilo Gianni, un chilo e mezzo, boh. E vabbè, vediamo. No, io lumacchine non ne mangio, mangio solo lumacche grosse, picco sugo piccante, boh. Oh yeah, mamma mia, il sonno mi sta venendo. Beh, signori, io me ne faccio in quel Rix, là. Ci sentiamo alle prossime che devo fare cose. Ehi, Natali, qua sono. Attenzione, canale 10, cambi. C'è rimasto qualcuno, Lucrezia, ci sei? Sì, ci sono, dimmi te le lumache. Ma tu le hai fatte? No, ma ricco. Sono belle, però io ciughitta non li mangio. Mangio solo lumache grosse, così con piccante. La ciughitta non mi soddisfa. Vabbè. La ciughitta la mangi come secondo, terzo piatto. Aspetta un attimo, già arrivata Maria, un attimo, arrivo subito. Attenzione sul binario 10, cambia. Onda bird. Attenzione Alghero, ci sei ancora? Attenzione Alghero, ci sei, cambio. Ora, attenzione canale 10, l'isola sarda fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Breco. Andale, attenzione, binario 10, cambio. E tu dove sei? Io? Tu sei vicino a me. Siamo al quadrato. E qua sta arrivando 9 più 60. Ciao Robe. Solo sì. Sì, c'è Luca, c'è, però non so se è rientrato. Dai, Luca ci sei. È andata a salutare a Marina che è arrivata. È andata a salutarla, ti aspetta un attimo. Cavagava. Va bene come radio? Sì, a Puglia. E come mai c'è al quadrato? Cavo, devo dire tutto. Vabbè, te lo dico. Siccome la mia compagna c'è alle 7:30, per fare orario mi sono fermato qua. Ah, questa volta si mette andando a fare collegamenti dal quadrato, e fate di tutto il cazzo, che bisogno c'è? No, è per fare orario, dai. Esce da lavorare alle 7:30, quindi vado a prenderla poi. Ah no, come non detto, no, perché normalmente i collegamenti si va verso Usilo in alto di Ricca. E già lo sai che vado anche io. Quando voglia vado anche lì a fare i collegamenti. Ho parlato con Abbasanta addirittura, che si arriva a 9 di ci ha basato. Sì, a Osilo domini tutto. Osilo, se vai in cima sono 800 metri, se ti metti sopra Monaria, il punto alto, Osilo come paese è più in alto di Tempio, la gente non lo sa, parliamo all'ingresso di Tempio, poi se sali su è un'altra musica. Tu all'ingresso di Tempio rispetto a Osilo paese è più basso di fare 50 metri, una cosa del genere. Cava cava, e vabbè, poi anche per l'aria, sempre in aereo, le nuvole te le vedi vicino da lì. No, io sinceramente non sono mai andato col baracchino di lì in alto, però scusa il telefono. È una bella zona, io ho fatto diversi collegamenti da lì, ma con posti lontani anche. Sono rientrato. Ehi, a roba dai, stavo leggendo una cosa. Cava cava, no vabbè, io te l'ho detto. Sono qui per fare orario, poi rientro a casa e non so manco se modulo, perché a me piace molto cantare, quindi ci facciamo un po' di serata ai karaoke. Ma da che parte sei tu del quadrato? Dalla parte dello stadio o dall'altra parte? Dalla parte dello stadio. Quindi dalla parte, e che professore avrai anche, via non ti sciogli? No, c'è una brezza, ho per tutte le finestre e entra aria, si sta bene. Ecco qua in officina adesso, mamma mia, non si poteva stare, da morire ce n'era. Perché lì fa la cappa, mi ricordo quando io lavoravo al capannone, era una fornace. No, ma adesso prendi il sole in pieno dalla sera, ti te lo trovi diretto, cos'è la tua strada, mamma mia, dalle due in poi ti becchi tutto il sole, diciamo dalle tre, dai, ti prende tutto il sole in pieno, sino al tramonto. Lo so, l'officina scalda, c'è poco da fare. Vabbè, no, io sono uscito per accompagnare la peso, sono andato al dentista, sono tornato e mi sono fermato qua, dai. Mi sono fermato e adesso mi faccio la chiacchierata con gli amici, però stare a tornare a casa io devo stare a Andorra, siccome è in zona, quindi va bene fermarsi qua. Ma pulito sei tu come segnale? K. Lo fondo scala sì, 9 più 60. Ehi, c'ho il magno però. Oh, tu vedrai l'antenna mia da lì. Avanti, chi chiama Roberto? Non lo so, Roberto, senti Alghero? Sì, lo ascolto, però è basso, come mai? Chi sei? Sei Santiago 7-8, come mai così basso? Non ho capito chi sei però. Carlo di Alghero, Roberto. Ah, Carlo, da tanto tempo che non ti sentivo. Come mai sei così basso, Carlo? Ma sì, culi che non ti sentivo. Come va, tutto bene? C'è troppa propagazione. Purtroppo, Carlo, qua c'ho segnali di nuovo in propagazione, ci stanno chiamando la Spagna. Non so se tu mi senti, perché sei in mezzo proprio alla propagazione. Sei 8 qua, però purtroppo c'è questo il 9 che ti sopramodula. Vediamo Gianni, avanti a te, vai, Gianni è più pulito. Ehi, dai, vediamo un po' se mi ascolta l'amico della Spagna. Attenzione, collega della Spagna, se ascolti l'isola della Sardegna, Italia, cambio. K7351, mio hermano l'operador Gianni Delta Romeo della città di Sassari, che ti super cordializza. Avanti collega, avanti Robè, flippi di giù, dai. È scomparso, poco fa la 9:10 è arrivato, ha coperto a Carlo. Adelante Spagna, se scucci l'Italia che va chiamando, avanti. Sì, buona tarda compagno, operatore Roberto, QSL. Sì, anche il tuo segnalito è molto molto forte, Santiago de 9, Radio 5, mi dà un controllito pure per me, per favore. RR, Estación Alfa Victor, Estación Alfa Victor, Fortuna, Rusia, Roger. Sì. Alfa Victor, se scusi l'operatore Gianni Delta Romeo in barra mobile, avanti. Sì, te voy copiando il barra mobile, dale muy fuerte por España. Cava cava, qua Santiago de 9, de 9, la radio de 5, avanti collega, contraccalami segnalito. España yendo en camión, es un Santiago 3-4, Santiago 3-4, radio 5. Cava Roger, muchas gracias mi hermano, avanti Robert. Vale, Roger, gracias amici, gracias. Sì, amico della Spagna, anche a me un controllito, stazione base per me. Operatore Roberto, qual è il cell? Attenti Italia, attenti Italia, si copia in Spagna. Sì, adelante Spagna. Ah, vale, è un bello. Parece come se tu vieni tranquillo, tranquillo in Spagna. Dale con un 7-8, un Ok, grazie, muchas gracias, compañero. Il tuo segnalito è 39 e Radio Super 5. Ok, adelante Alghero. Alghero, adelante per la Spagna. Carlo, avanti a te. Sono uno sopra l'altro. Avanti che vuole entrare. Vale, è che hai due che parlano alla misma vez. Hai due che parlano alla misma vez, Roger. Sì, il tuo segnalito è 9 più 15, Radio Super 5, molto, molto, molto forte. Qual è tu ciudad, Roger? Mio nome è Roberto Cuesela. Ok, Roberto, mi nome è Carmelo. Io me chiamo Carmelo, Roger. Sì, ben sentito, Carmelo. 7351, Basti è la tua QTH familiare. Avanti, Gianni. Cava, amico, non so se mi stai ascoltando, dai. Io ti escucho molto bene, mio hermano. C'era qualcuno che voleva entrare, non so se era Natalia. Natalia, tu sì. Ok, ciao, amico, Ciao, bye bye compagno, ciao. Natale tu sì. Carlo, ti sento, però sei in mezzo al QRM, sei Santiago 8, purtroppo c'è questa propagazione che ti sta disturbando. Non riesci a fare niente per migliorare. No, sei salito un po' di segnale, sei 8, però ripeto, qua la propagazione supera il 9. Non riesco a tirarti fuori bene, a tratti ti ascolto, però non so, vediamo Gianni, che forse lui è meno critica la situazione. Gianni, vedi tu per Alghero. Anche io sento molto QRM. La propagazione qua, prova a venire avanti Roberto, vediamo un po' se ti ascolto, dai. Carlo, non Roberto. Carlo, mi ascolti? Oh, troppo QRM, cioè non l'ascolti Roberto, l'ho ascoltato poco fa, ma adesso c'è troppo QRM. Attento compagno delle spalle, devi ascoltare l'operatore Delta Romeo della città di Sassari, nord Sardini, Italia. Quando è così la propagazione è brutta, perché non si capisce niente, sono uno sopra l'altro. Ok, ma c'era qualcuno che voleva entrare abbastanza forte. Avanti, chi vuole entrare qua sul canale 10? Che avanti? Chi sei avanti? Ma tu Gianni eri? Ah, oh, Carlo, già ti ascolto, però ripeto, sei o va sei in macchina o sei in una zona un po' scoperta. Ti sento molto disturbato, il segnale è forte, è 8, però la radio, cacchio, ti tira presso questi disturbi di propagazione, non riesco a capire bene quello che dici. Io come ti sto arrivando di ad Alghero, Carlo? Ora, attenzione, binario 10, cambio. Ora. Ma tu eri poco fa già che non stavi uscendo. Cosa? Tu eri poco fa che non stavi uscendo, ho capito, ho detto un attimo Robe, sembrava in FM la segnale. No, non ero io sono andato a fare un giro, una spazzolata esatto il canale, a vedere se c'è la propagazione. C'era un segnale 9.30, ha detto un attimo Robe, però non ho capito chi era, sembrava in FM, non si capiva niente. E anche io 9.30 ti arrivo, guarda quando ti arrivo io. No, 9.60, ma ho pensato mai che ti fossi sforzato. No, sei sempre lì, ma mi sono mosso di un millimetro. E io, ok, dai, non c'è problema. Facciamo un'altra chiamata qua sul 10, se nel frattempo qualcuno vuole entrare. Avanti sul 10 che vuole entrare. No, c'era qualcuno che era molto spostato, così Luca non riuscivo a centrarlo, probabilmente c'era qualche problema. Natalina era di 10 kHz, ma non è niente, è assolutamente regolare. Bisogna considerare poi quando ti ascolti con certi tipi di radio, c'è un filtro molto stretto, devi lavorare con qualcosa, per cercare di centrare. Mentre Franco giù dal vero era perfetto. Sì, beh certo. I filtri contano molto i filtri, già lo credo, questo sicuramente. No, ma io Natalino lo sentivo poi, perché poi l'ho centrato bene, a 0,75 perfetto, lo sentivo benissimo. Sì, 10 kHz non so niente, lo ascoltavo bene, però per avere proprio la modulazione pulita mi dovevo ascoltare in basso di 10. Ok, ho capito. Va benissimo, sto guardando una partita, adesso sta vincendo la Slovacchia 2-1 con la Polonia. Con la Polonia? Sì, con la Polonia, sì. Slovacchia 2 e Polonia 1. A 72esimo. No, vabbè, quelle partite così non è che mi interessano più di tanto. Stasera potrebbe essere discreta perché c'è Spagna-Svizzera, domani è bella Germania-Francia, quella è una bella partita. Sì, anche quella è bella, Francia-Germania, certo così. No, ma li sto guardando tutti io, sì, adesso li ho viste tutte, è per quello. e domani ce n'è un'altra anche domani della Coppa America alle 11:30 di notte. Ma quella non la guardo, ma come sogno, quella Coppa America non mi interessa. La Coppa America è bella nella fase finale, quando trovi Argentina Brasile, Uruguay Argentina, partite così importanti. Allora giochiamo Guatemala, Cile, squadrette così, non è che ci sia tanto spettacolo. È bello quando arrivano le fasi finali. Ma sta uscendo Giulio di radio, mi sembra buono. Come non sta uscendo? Certo che sta uscendo. Sembrava, aspetta, sì, no, pensavo che avevo un basso e cosa, no, già tutto a posto. Sto uscendo con colograma comunque. Ok, perché non mi senti bene a me? A Puglia, cazzo. E allora, da me, ecco quello grande, cosa ti segna di segnale adesso? Guarda, contante solo. Vai. Prova a parlare. 1, 2, 3, prova, non solo portante, mi interessa parlare, se sta un picchi positivi, sicuramente perlomeno a me ve li segna. Avanti. Ma faccio una domanda, tu allora con i picchi più su positivi superi i 20, se no l'importante è se è un po' meno di 20. Ok, va bene, a voi se va bene. Ma questo è l'Inter 44, multi come 44. Sì, l'anno 44, sì. Sì, sì, già una bella radio, anche quella lì l'ho avuta io tanti anni fa. Ok, va benissimo. Va benissimo, non c'è problema. C'ho anche l'altro base della, sempre della Inter, anzi ne ho due della Inter che già vanno bene, già sono radio che funzionano bene. Non c'è problema, vediamo l'amico Natale se è ancora a Capodanno. Io sto mangiando. No, non posso. Mi ascolto, però sto mangiando, Ma Natale si manda la torata. Ritorna in AM, Natale. Mettiti in AM, Natale. Ehi. Va bene adesso, dai. Com'è questa modulazione con questa radio? Cosa, Giulio? Ottima, perfetta. Dopo ti faccio il confronto con l'altra e mi dici chi ti piace di più. Ok, questa è perfetta, la radio è perfetta, non c'è problema. Alla grande. Non si sente molta amplificazione, però la radio è molto chiara, insomma. Non è amplificata molto questa? No, io non lo sento, forse il volume basso io, sarà per quello, non lo so, però è pulitissima. No, vabbè, qua posso sollevare il microfono, non c'è problema. Sono, diciamo, diverso dall'altra, l'altra lo tengo più basso, questa vuole sollevata un pochettino di più rispetto all'altra che uso normalmente. Ok, sì. No, ma va benissimo, così va benissimo, non c'è problema, non me. Sarà grande. Eia, vediamo qua sul canale 10 se vuole entrare qualcuno nel frattempo. Ok, non c'è nessuno sicuramente, con la propagazione c'è sempre poca gente. Vediamo un pochettino, facciamo una chiamata qua generale, attenzione chi vuole entrare qua sul canale 10, di nuovo, se no riprendi tu Natalia e puoi fare girare per Giulio. Riprendo io, stavo provando a vedere a che livello mi aprivi lo squelch. Ho messo lo squelch, aspetta che guardo, esattamente a tre quarti se me lo apri, lo squelch mi apre a tre quarti di chiusura. No, io lo squelch non lo uso mai, raramente, quando sto facendo altre cose, ma raro, proprio raro. No, ma io ho voluto provare, intanto per vedere dove me lo aprivi, capito? A che livello me lo aprivi, praticamente quasi a tre quarti. Vabbè, già siamo abbastanza vicini, non ci sono problemi quando siamo in città con questi segnali a Puglia. Alla grande, io lo dico. Poi con questi segnali qua, per forza lo apre lo squelch. Adesso ho cambiato di nuovo radio, guarda se è cambiato anche qualcosa di segnale, di radio, di modulazione. Sì, leggermente di più, ma un po' come un punto S, non di più di segnale, e del radio un pochino più forte, sì, più brillante, un po' più brillante, dai. Io allora posso regolarla diversamente, dai, non c'è problema. Ok, oggi non va poco niente, c'era poco fa doppio rumo che era su, mi stava sfacciando lo smitter, era sulla quadrata, arrivava a fondo scala, poi in banda laterale proprio si puntava lo smitter, infatti dovevo attenuare di 30 dB, se no mi sfascia tutto. Certo che sì. Lì dal quadrato, lì dove sei tu, cosa c'è? Cazzo, non c'è molto, e lì nell'aria ci saranno, c'è no, a esagerare 100 metri in linea d'aria. Sì, sicuramente lui deve fare anche le mie, non c'è problema. Ok, dai. Natali, ci sei ancora? Sono in ascolto che sto mangiando, Roberto. Buon appetito, allora mangia a pezzi piccoli perché sennò poi ti vai attraverso e bisogna farti il coso, un'apertura per scaricare. Mangia poco Natalia, se lo ingrassi. È proprio quello che devo ingrassare. E poi se ingrassi dopo non rifare i vestiti se devi fare il nuovo abbigliamento. Vuoi che succede a me, c'è la gira, mi dovrò comprare i pantaloni nuovi, che fra un po' forse non c'entro più qui. E a te già t'ho visto quando sei venuto a trovarmi, in un primo momento ti ho riconosciuto la voce, eri con gli occhiali scuri, e stai chi sugare, perché non diciamo dentro di me, non l'ho detto ma l'ho pensato, poi ti ho sentito parlare, ma questo è Giulio, ho detto qualche chiletto già l'ha messo, buono a vedersi, dai. Diciamo che peso al momento, l'altro giorno mi sono pesato, 83 qualcosa, dai, qualcosa, 83 metri, una cosa del genere, e vabbè, io già caro quando voglio, non c'è problema, il fatto è che non esco, capito, quello è, perché a mangiare mangio forse anche di meno di prima, però rimanendo a casa senza fare nessun movimento, allora è chiaro che qualche tiro lo prendi. Guarda, io dico, ti devi preoccupare quando dimagrisci troppo, se tieni il peso di qualche chilo in più non c'è molto da preoccuparsi, senza esagerare naturalmente, è più preoccupante quando uno cala di peso pur mangiando, a quel punto non deve stare attento. Sì, beh, ma di solito io, sempre parlando a pantaloni corti, peso 80 kg di solito, ma adesso ne peso 83,5, così che sono 3 kg insomma. Però devi considerare un anno e mezzo sempre a casa, esco raramente, solo in caso di necessità esco, come per dire andare a prendere la pensione o fare delle visite, ma per il resto poi non faccio altro, cosa vuoi che ti dica? Vabbè, passerà questa pandemia, no? Speriamo. Ma te il mare non ti piace, non ci va al mare, giù? No, io no, non ci va, andavo quando ero ragazzo, ho fatto tanti anni di campeggio. Però adesso no, adesso quando vado al mare vado a sera, magari a respirare aria fresca, ma niente di più, vado durante il giorno col sole leone, no, non ci penso più.